Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis, andiamo a Frascati, questa sera laboratorio di diagnostica e metrologia per incontrare Laura Teodori, che tra le altre cose è la responsabile scientifica del progetto MERIT, modelli innovativi di rigenerazione di tessuti in traumi ortopedici. Un progetto di rete internazionale lanciato da Enea e Ospedale San Raffaele Pisana, i cui risultati, la metodologia di cui parleremo stasera, sono stati inseriti dalla rivista internazionale Stem Cells nella top 10 degli ultimi 30 anni di ricerca in fatto di medicina rigenerativa. Un settore di ricerca, c'è chi parla di fabbrica dei tessuti, che si stima sarà in grado di muovere un giro d'affari di oltre 300 miliardi di euro nei prossimi 15 anni. Ma sentiamo di che cosa si tratta dalla voce di Laura Teodori. L'ingegneria dei tessuti si propone di ricostruire in laboratorio tessuti o organi irrimediabilmente danneggiati che non è possibile sostituire. Ecco, ci sono molti approcci da questo punto di vista, ne abbiamo anche già parlato, per esempio abbiamo parlato di come si cerchino addirittura di stampare degli organi con le stampanti 3D. Voi avete un approccio tutto vostro che evidentemente è considerato molto promettente, allora le chiedo di spiegarci come funziona. Anche noi sogniamo di arrivare al 3D prima o poi, ovviamente, ma in questo momento noi stiamo studiando la possibilità di fare delle matrici, dei supporti, cioè delle impalcature che possono poi essere trasferite nel corpo del paziente e il paziente stesso possa rigenerare il proprio tessuto lì dove noi gli abbiamo costruito uno spazio, richiamando le proprie cellule staminali, tutto rifacendo la vascolarizzazione, eccetera. E quando poi questo tessuto sarà riformato, la matrice sarà digerita e quindi scomparirà. E rimane solo il nuovo organo. Ecco, mi fa un esempio pratico, diciamo, dove state già sperimentando questo approccio? Noi collaboriamo con l'Università di Pittsburgh, loro sono dei giganti in questo senso, e si sta tentando di ricostruire dei muscoli in pazienti dove c'è stata un'importante perdita di muscolo, anche dell'80% in alcuni casi per incidenti, mettendo questa matrice presa da, per esempio, dalla vescica di maiale, quindi trattata in un certo modo, inserita dentro la location, il posto dove si deve ricostruire, e poi piano piano il paziente stesso, seguito nel tempo, appunto riforma questo tessuto, e con una grande riabilitazione, certo. È importante che ci sia una cooperazione. Questi pazienti che all'inizio non potevano né alzarsi né prendere un bicchiere, e poi dopo, sono 5 pazienti allo studio, e dopo un po' di tempo sono anche tornati ad andare in bicicletta. Ecco, lei ha parlato dell'esercizio fisico, che è una delle tante, diciamo, variabili esterne che condizionano lo sviluppo di un tessuto. Le ossa, per esempio, si sviluppano a seconda della direzione in cui vengono compresse, e voi lavorate su tantissimi dettagli. Mi spiegava, se ho capito bene, che questa impalcatura quindi ha delle funzioni strutturali, meccaniche, ma poi anche tutta una serie sopra di chimismi. Sì, guardi, lei è proprio centrato il punto. Allora, abbiamo visto che determinate geometrie, per esempio, permettono la ripopolazione del tessuto, altre no, e quindi questo non si sa ancora, si sta studiando. Ma il chimismo, come diceva lei, è molto importante. Sicuramente l'impalcatura, oltre ad avere delle funzioni meccaniche, come ha detto lei, stiamo tentando di sfruttare proprio la presenza di molecole particolari sulla superficie di questi scaffold, di queste impalcature, proprio per poter richiamare le cellule dell'organismo, addirittura cellule staminali, che possano trovare lì la possibilità di trovare casa in questo spazio e di differenziarsi nel tessuto che vogliamo. E ovviamente noi stiamo lavorando molto su questa cosa, per poter anche modulare la risposta infiammatoria, che comunque c'è, ma possiamo utilizzarla proprio per implementare questo richiamo di cellule staminali e il differenziamento delle cellule nel tessuto opportuno. Ecco, sì, qui poi la cosa diventa naturalmente complicata. Voi avete scoperto che se attirate alcuni tipi di cellule del sistema immunitario, queste vi aiutano, diciamo, stimolano le altre a generare tessuti. È una cosa che diventa complicatissima, ma per dare un'idea del tipo di problemi che affrontate. Senta, abbiamo parlato di ricostruire muscoli, il prossimo step quale potrebbe essere? Beh, ancora per noi, ancora muscolo, okay. perché dobbiamo lavorare bene sulla ricostruire la vascolarizzazione, e quindi diciamo che questi sono stati proprio i primissimi, i pazienti sono stati selezionati in base alla facilità, se così possiamo dire, però noi dobbiamo lavorare ancora e parecchio sul muscolo. Sempre sul muscolo, d'accordo, allora grazie Laura Teodori, professoressa Laura Teodori, e buon lavoro. Grazie a lei. Rientriamo in studio per salutarci e darci appuntamento a domani. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.